Sai, non mi importa se hai la quarta oppure no. Sai, non fa niente se sei intelligente oppure no. Sai, non fa nulla se sei buzzurra oppure no. Sai, non è una tragedia se sembri una sedia oppure no. Si accantona nei luoghi comuni, apposta che faccia i suoi. Sai, non mi disgusta se sei una busta oppure no. Sai, se hai il culone problemone, ma anche no. Sai, me ne fotto se sei un canotto oppure no. Sai, non faccio caso, sei grosso il naso. Che faccio sui. Sai, non importa se sei storta oppure no. Sai, che mi frega di una sega proprio no.